Alle scuderie del Quirinale di Roma, il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia. Raffaello, Tiziano, Guido Reni. Fino al 12 marzo, scuderiequirinale.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. La direttrice di Lowood, Miss Temple, sedette davanti a due mappamondi posti su uno dei tavoli, chiamò intorno a sé le ragazze dell'ultima classe e cominciò a tenere una lezione di geografia, mentre le classi inferiori si raccoglievano intorno alle insegnanti. Le interrogazioni di storia, di grammatica e delle altre materie andarono avanti per un'ora. Seguirono calligrafia e aritmetica. Dopodiché la signorina Temple impartì lezioni di musica a qualche allieva più grande. La durata di ogni lezione era regolata dall'orologio che a un certo punto batté le 12. La direttrice si alzò. «Ho un annuncio da fare alle allieve», disse. Il trambusto che di solito seguiva le lezioni si stava già scatenando, ma fu sedato dal suono della sua voce. Lei continuò. «Questa mattina la colazione era immangiabile e avrete fame. Ho dato ordine di servire a tutte quante pane e formaggio per pranzo». Le insegnanti la guardarono piuttosto sorprese. «Mi prendo io la responsabilità», spiegò rivolta a loro, e subito dopo uscì dalla stanza. Di lì a poco furono portati e distribuiti pane e formaggio, con grande gioia e sollievo di tutta la scolaresca. Dopodiché l'ordine fu «In giardino!». Tutte si calarono in testa un ruvido cappello di paglia con lacci di tela colorata e un gabbano di ratina grigia. Anche a me furono forniti indumenti simili e, seguendo il flusso delle altre, uscii all'aria aperta. Il giardino era un ampio terreno cintato, racchiuso da muri tanto alti da impedire qualsiasi vista al di fuori. Tutto un lato era occupato da una veranda e ampi sentieri delimitavano lo spazio in mezzo, che era diviso in una serie di piccole aiuole, ciascuna assegnata a un'allieva perché la coltivasse come giardino personale, e ogni aiuola aveva la sua proprietaria. Fioriti avrebbero senza dubbio fatto la loro figura, ma adesso, alla fine di gennaio, tutto appariva avvizzito dal gelo e una bruna putredine regnava incontrastata. Mi fermai rabbrividendo e mi guardai intorno. Era una giornata troppo rigida per muoversi all'aperto, non esattamente piovosa, ma oscurata da una nebbia giallastra e umida. E il terreno sotto i piedi era ancora fradicio per il diluvio del giorno prima. Le ragazze più vigorose correvano qua e là scatenandosi in giochi movimentati, ma quelle palliducce e magre, che erano la maggior parte, si raggrupparono per ripararsi e scaldarsi tutte insieme sotto la veranda, e tra queste che rabbrividivano mentre la nebbia fitta penetrava nelle ossa era tutto un levarsi di colpi di tosse cavernosa. Fino a quel momento non avevo parlato con nessuna e apparentemente nessuna si era accorta di me. Me ne stavo lì, da sola, ma ero abituata a quel senso di isolamento e non mi opprimeva più di tanto. Mi appoggiai a una colonna del portico, stringendomi nella palandrana grigia e cercando di dimenticare il freddo che mi mordeva fuori e la fame insoddisfatta che mi divorava dentro, mi dedicai a osservare e a pensare. Le mie riflessioni erano troppo vaghe e frammentarie per farvi cenno. Ancora non sapevo esattamente dove mi trovavo. Gateshead e la mia vita passata sembravano essere svaniti in qualche luogo remotissimo. Il presente appariva incerto e fumoso. E sul futuro non potevo fare previsioni. Mi guardai intorno in quel giardino che sembrava appartenere a un convento. Poi diedi un'occhiata alla casa, un edificio enorme che per metà sembrava vecchio e tetro, per l'altra metà relativamente nuovo. La parte più moderna, quella che includeva l'aula e il dormitorio, prendeva luce da bifore e trifore a graticcio che le davano l'aspetto di una chiesa. Una targa di pietra sopra la porta recava la scritta: Istituto di Lowood. Quest'ala dell'edificio è stata ricostruita anno domini da Naomi Brocklehurst di Brocklehurst Hall in questa contea. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5:16. Lessi e rilessi quelle parole. Sentivo che contenevano una spiegazione e tuttavia non riuscivo ad apprezzarne fino in fondo la portata. Stavo ancora riflettendo sul significato di istituto e sforzandomi di trovare un collegamento tra la prima frase e il versetto delle scritture, quando un colpo di tosse vicino a me mi fece girare. Vidi una ragazza seduta su una panca di pietra. Era china su un libro e sembrava immersa nella lettura. Da dove mi trovavo riuscii a scorgere il titolo Rasselas, un nome che mi parve bizzarro e di conseguenza mi attrasse. Voltando pagina lei alzò gli occhi e io le dissi senza tante cerimonie: «È interessante il tuo libro?» Già nella mia mente aveva preso forma l'intenzione di chiederglielo in prestito un giorno. «A me piace», rispose lei dopo un paio di secondi nel corso dei quali mi scrutò da capo a piedi. «Di che cosa parla?» continuai. «Non so davvero come avessi trovato l'audacia per iniziare una conversazione con una persona che non conoscevo. Era un'iniziativa contraria alla mia natura e alle mie abitudini, ma è probabile che l'occupazione in cui era immersa avesse toccato una corda sensibile dentro di me, perché anche a me piaceva leggere, sebbene lo facessi in maniera frivola e infantile. Non ero ancora in grado di assimilare né di comprendere gli argomenti seri e di un certo peso. «Puoi guardarlo», rispose la ragazza offrendomi il libro. Lo guardai. Una breve scorsa mi convinse che il contenuto era meno attraente del titolo. Rasselas sembrava troppo noioso per i miei gusti superficiali. Niente fate né folletti in quelle pagine. Nulla di colorato che interrompesse la monotonia di quei caratteri fitti. Glielo restituì. Lei lo prese tranquillamente e senza una parola. Sembrava pronta a immergersi ancora nella lettura. Mi arrischiai a disturbarla un'altra volta. «Puoi dirmi cosa significa quella scritta sulla pietra sopra la porta? Cos'è l'istituto di Lowood?» «È la casa in cui sei venuta a stare. E perché la chiamano istituto? In che modo è diversa dagli altri collegi?» «In parte la scuola è finanziata da un ente benefico. Io e te, e anche tutte le altre, siamo bambini bisognosi. Immagino che tu sia orfana. Tuo padre o tua madre non sono morti?» «Sono morti tutti e due. Non mi ricordo né l'uno né l'altro. Beh, tutte quante qui hanno perso uno o entrambi i genitori. E questo è appunto un istituto per orfani. E non paghiamo. Ci tengono qui gratis. Paghiamo, sì. Oppure pagano i nostri amici 15 sterline all'anno per ciascuna di noi. E allora perché ci chiamano bambini bisognosi? Perché 15 sterline non bastano per vitto, alloggio e istruzione, e quello che manca viene dalle donazioni. E chi è che le fa? Diverse persone, uomini e donne di buon cuore che abitano qui vicino o a Londra. Chi era Naomi Brocklehurst? La signora che ha costruito la nuova ala della casa, come dice la targa. E quello che sorveglia e decide tutto quanto qui è suo figlio. Perché? Perché è il tesoriere e l'amministratore dell'istituto. Ma allora la casa non è di quella signora alta con l'orologio, quella che ci ha fatto preparare pane e formaggio? La signorina Temple? Ah no, magari. Lei deve rispondere a Brocklehurst di tutto quello che fa. È lui che ci compra da mangiare tutti i nostri vestiti. E abita qui? No, a 2 miglia da qui, in un grande palazzo. È un uomo buono. È un ministro della Chiesa. Molti dicono che faccia del bene. La signora alta si chiama Temple, hai detto? Sì? E le altre insegnanti, come si chiamano? Quella con le guance rosse è la signorina Smith. Lei sorveglia il lavoro e ci insegna a tagliare e cucire, perché ci facciamo da sole tutto quello che indossiamo, i vestiti e i soprabiti. Quella piccola, coi capelli neri, è la signorina Scatcherd. Insegna storia e grammatica e interroga le allieve della penultima classe. E quella con lo scialle, che tiene il fazzoletto in un borsellino attaccato alla cintura col nastro giallo, è Madame Pierrot. Viene da Lille, in Francia, e insegna francese. A te sono simpatiche le insegnanti? Abbastanza. Anche quella scura di capelli è Madame... Non riesco a pronunciare il nome come fai tu. La signorina Scatcherd si arrabbia facilmente. Devi stare attenta a non offenderla. E Madame Pierrot non è una cattiva persona. Ma la migliore è la signorina Temple, o no? Ah, la signorina Temple è molto buona, molto intelligente, al di sopra di tutte quante, perché sa molte più cose delle altre. È tanto che sei qui? 2 anni. Sei orfana? Mia madre è morta. E sei contenta qui? Lo sai che fai troppe domande? Ti ho risposto abbastanza per il momento, adesso ho voglia di leggere. Ma proprio allora suonò la chiamata per il pranzo e rientrammo tutte quante. L'odore che riempiva il refettorio non era certo più allettante di quello che ci aveva deliziato le narici a colazione. Il cibo fu servito in 2 enormi recipienti di stagno da cui si levava una densa nube di vapore accompagnata dai miasmi del grasso rancido. Scoprì che questa volta la sbobba consisteva in un intruglio di patate di seconda scelta e brandelli di carne scura dall'aria poco raccomandabile che venne distribuita alle allieve. Ciascuna ne ebbe un piatto piuttosto abbondanti e io mangiai quel che potevo, chiedendomi se il vitto sarebbe stato tutti i giorni così. Dopo pranzo ci spostammo nell'aula e ricominciarono le lezioni che continuarono fino alle 5. L'unico evento degno di nota del pomeriggio fu che la ragazza con cui avevo conversato nel portico fu cacciata ignominiosamente dalla signorina Scatcherd durante l'ora di storia e fu costretta a stare in piedi in mezzo all'aula. Mi sembrò un castigo particolarmente umiliante, soprattutto per una ragazza di quell'età, perché doveva avere 13 anni o forse di più. Mi aspettavo che si mostrasse addolorata o che si vergognasse. Ma con mia grande sorpresa, non si mise a piangere e nemmeno arrossì. Rimase lì, composta, seppure con un'espressione seria, sotto gli occhi di tutte. Come fa a sopportare tutto questo con tanta tranquillità e risolutezza, mi domandai. Se fossi al suo posto vorrei sprofondare sottoterra. Sembra che stia pensando a qualcosa al di là della punizione, al di là della sua situazione, a qualcosa che non è intorno a lei, né davanti a lei. Ho sentito parlare dei sogni a occhi aperti. Sta sognando a occhi aperti adesso. Ha gli occhi fissi sul pavimento, ma sono sicura che non lo vede. Sembra che il suo sguardo sia rivolto all'interno, sprofondato dentro il suo cuore. Sta contemplando quello che ricorda, credo, non ciò che è reale presente. Chissà che tipo di ragazza è. sia buona o cattiva. Poco dopo le 5 ci servirono un altro pasto che consisteva in una misera tazza di caffè e mezza fetta di pane nero. Divorai il pane e bevi il caffè, avidamente, ma avrei voluto una doppia razione, tanto ero affamata. Seguì una ricreazione di mezz'ora e poi un po' di studio. Infine il solito bicchiere d'acqua e il pezzetto di frittella d'avena, le preghiere e a letto. Quello fu il mio primo giorno a Lowood. Il mio primo trimestre a Lowood mi sembrò lungo un secolo, e non certo un secolo d'oro, impegnata com'ero in una lotta estenuante per abituarmi a nuove regole e a compiti per me inusuali. Il terrore di non farcela mi tormentava più delle durezze cui era sottoposto il mio fisico, sebbene anche queste non fossero una bazzeccola. Nei mesi di gennaio, febbraio e una parte di marzo, le grandi nevicate seguite dal disgelo e le strade quasi impraticabili ci impedirono di varcare il muro del giardino, se non per andare in chiesa, ma pure con questi limiti eravamo costretti a passare un'ora al giorno all'aria aperta. I nostri vestiti non erano sufficienti a proteggerci dal freddo intenso. Non avendo stivali, la neve ci entrava nelle scarpe e lì si scioglieva. Senza guanti, le mani si intirizzivano e si coprivano di geloni, come i piedi. Ricordo bene il tormento che pativo per questo ogni sera quando i piedi si infiammavano e la tortura di ficcare le dita gonfie, piegate e rigide nelle scarpe la mattina. E poi il vitto scarso era una pena. Non sarebbe bastato a tenere in vita un invalido? E noi godevamo dell'appetito robusto dei ragazzi nell'età della crescita. Da questa penuria di cibo derivava un abuso sistematico ai danni delle allieve più giovani. Ogni volta che potevano, le più grandi, affamate, convincevano le piccole, con le buone o con le cattive, a cedere la loro parte. Quante volte ho dovuto dividere con due contendenti il prezioso tozzo di pane nero distribuito all'ora del tè, e dopo aver ceduto a una terza la metà della mia tazza di caffè, ho trangugiato il resto condito dalle segrete lacrime che mi strappavano i morsi della fame. Le domeniche erano giornate tetre in quella stagione invernale. Dovevamo percorrere 2 miglia a piedi fino alla chiesa di Brocklebridge, dove officiava il nostro benefattore. Partivamo già infreddolite e all'arrivo lo eravamo ancora di più, tanto che durante la funzione mattutina eravamo quasi paralizzate. La chiesa era troppo lontana per tornare in tempo per il pranzo e tra una funzione e l'altra veniva distribuita un po' di carne fredda con del pane, nelle stesse misere porzioni del nostro pasto abituale. Al termine della funzione pomeridiana tornavamo per una strada collinare spazzata da un aspro vento invernale che, soffiando da una catena montuosa e innevata a nord, quasi ci scorticava la faccia. Ricordo la signorina Temple, avvolta nella mantella a scacchi svolazzante, che camminava lieve e spedita nel vento gelido accanto alla fila di allieve abbattute, spronandoci con le parole e con l'esempio a tenere alto il morale e ad andare avanti come prodi soldati. Quanto alle altre insegnanti, poverette, per lo più erano anche loro troppo demoralizzate per cercare di incoraggiarci. Come agognavamo la luce e il calore di un focolare acceso al nostro ritorno. E tuttavia, almeno alle più piccole, questo conforto era negato. Le ragazze più grandi, disponendosi in doppia fila, circondavano immediatamente entrambi i caminetti. E alle piccole, dietro, non rimaneva che rannicchiarsi uno addosso all'altra, stringendosi le braccia scheletriche nel grembiale. Un po' di sollievo arrivava all'ora del tè, sotto forma di una doppia razione di pane, un'intera fetta invece della consueta metà, con l'aggiunta di un sottile e prelibato strato di burro. Il premio settimanale che aspettavamo con ansia da una domenica all'altra. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.